droghe biologiche, emoglobina sintetica, emoglobina animale, eritropoietina, fumo, fame, funghetti, hashish, HGH, HCG, LSD, LFG, LI, MDMA, metanfetamine, metadone, Maria, morfina, oppio, ormoni, erfluorocarbonio, popper, pere, pippe, roba, RSR 13, S107, scoria, speed, trip, tossico, testosterone, Viagra, droghe per rilassarsi, droghe per dormire, droghe per stare svegli, droghe per alzarsi dal letto, droghe per stare su, droghe per vedere altri mondi, droghe perché non ci sai stare a questo mondo, droghe per non capirci più niente, droghe perché pensi di capirci di più, droghe per i muscoli, droghe per non ingrassare, droghe per correre, correre, correre più veloci, droghe per essere più veloci, più forti, per ballare, droghe per sballare, droghe per scopare. I pomeriggi più lunghi della mia vita, i più belli, tra le strade e gli allenamenti, nessun pensiero, nessun rumore, solo le ruote che calpestano il terreno e i pensieri che li seguono. Io non mi ricordo quando la bicicletta è diventata uno sport, nel senso che o facevi nuoto, oppure facevi calcio, oppure ti iscrivevi da qualche parte così per fare sport. La scuola, lo sport, la lezione di musica, i compiti, la cena, la televisione, la sveglia, la tazza di caffè latte, due biscotti, due, perché poi mi veniva subito da vomitare, e poi la cartella preparata in fretta, e poi in macchina, zitti, zitti, zitti, zitti, zitti, fino a scuola, la campanella, l'intervallo, per parlare, non mi ricordo di quale squadra di calcio o di quale cantante, per lo più ascoltavo. Poi di nuovo da capo, e la bicicletta così è diventata lo sport, una casella da riempire. Che sport fai? Qual è il tuo piatto preferito? Tuo padre che lavoro fa? Spariva così il rumore della ruota per terra e di colpo c'erano un sacco di parole, poi le gare, poi in qualche cosa dovrai pure essere il primo anche tu, no? In qualcosa sarai portato anche tu. Buio, incubi, la tappa è sempre più difficile, vado lento, come se le ruote pesassero 10 kg l'una, poi cado, perdo, perdo sempre, sudo, mi sveglio, caffè, latte, due, biscotti, due, perché poi mi viene da vomitare. Tu, che sport fai? Chi? Attori, ciclisti, cantanti, casalinghe cubiste, chirurghi depressi, diciottenni, trentenni, sessantenni, dentisti, escort, minorenni, modelle, politici, presentatori, nuotatori, rugbisti, pallavolisti, poeti, steroidi dipendenti, chi balla in discoteca, chi balla in discoteca, chi si diverte e chi ride e chi piange e chi s'annoia, chi vuole picchiar duro, chi vuole avercelo sempre, sempre, sempre, sempre duro, marionette, chi smette quando vuole e chi muore d'overdose, chi vuole sognare, chi non sa sognare, chi ha smesso di sognare, chi vuole giocare, chi non sa giocare, chi sa solo giocare truccato, e chi ha gli esami da fare, chi si vuol ricordare, chi perde la memoria, chi non si ferma mai, chi vince sempre, chi si ferma è perduto, e chi la patente per la moto non mi interessava, mi piacevano tante piccole cose che non dicevo a nessuno, mi piacevano i dettagli. Mi piaceva l'odore dell'estate, mi piaceva il costume che ti si appiccica addosso, e poi quando devi staccare fa quel rumore, e cioc cioc cioc cioc cioc cioc cioc cioc, mi piaceva capire l'attimo in cui il semaforo stava a diventare verde, mi piaceva perdere tempo, mi piaceva la noia, mi piaceva la lentezza, ma dovevo correre, correre, correre, correre sempre, correre, correre, correre a scuola, correre a casa, correre per prendere l'autobus, correre, correre per non far tardi, correre, correre, correre, correre, correre, correre, correre per non perdere il posto, correre, correre per non arrivare in ritardo. Ero sempre in ritardo, di poco, neanche uno dei grandi ritardi, ma di una frazione di secondo per essere considerato lento in tutto. I primi sono quelli che se ne fregano, quelli che gli viene naturale, quelli che hanno il talento, quelli che sono portati, quelli che stanno con la più bella, sì. Quelli che tutto gli viene facile, a me veniva difficile tutto, e quella faccia lì, quel tono, quella voce lì, ce li avevo sempre appiccicati addosso come una maschera, lento, lento, troppo, troppo lento, ma nelle gare no, nelle gare non si poteva, nelle gare lì dovevo vincere, vincere, vincere, vincere, vincere, vincere, vincere, vincere, vincere, vincere, vincere, vincere. L'adrenalina è una roba strana, una roba che crea dipendenza. E allora, allora ho smesso di amare la noia. Volevo lo spallo. Ho letto da qualche parte che tra gli effetti cosiddetti collaterali c'è l'infarto. Mi sveglio. Mi sembra che il cuore si sia bloccato, è in ritardo. secondo. Mi alzo, bevo un bicchiere d'acqua. Thank you. l'eroina, ascessi, carie, epatite, flebiti, HIV, malattie venere, overdose, perdita di denti, paranoia, assuefazione, effetti della cocaina, crisi di panico, danni al sistema nervoso, depressione bipolare, delirio, insonnia, infarto, psicosi, assuefazione, effetti delle droghe sintetiche, aritmia, epilessia, infarto, ictus, paralisi respiratoria, assuefazione, effetti delle droghe in genere, asma, depressione, dipendenza, danni al sistema nervoso, epilessia, paralisi respiratoria, tumori, assuefazione. Ho vinto. Poi non ho più vinto. Ho scopato e poi non ci riuscivo più. Ho paura che sia assuefazione, che non so esattamente che cosa sia, ma è spossatezza continua. Il ritmo è cambiato, non segue più una routine. Mi alzo e dormo, mi alzo e dormo, dormo, mi alzo, dormo, dormo, mi alzo, bevo, mangio, mi scordo cos'è il gusto, non mangio praticamente più. Il telefono è irraggiungibile, meglio alzarsi, bere un bicchiere d'acqua, non ci sono specchi, ho vinto e non mi è piaciuto più. Molti li beccano, li eliminano, li umiliano, rinascono, muoiono, si pentono, ricominciano. Non mi hanno mai trovato positivo a niente. Vincevo, ma rimanevo invisibile. Non il più grande. È una cosa che non sono mai stato. Il più grande. Un vincitore invisibile. Assuefatto. Intollerante al latte, ho scoperto perché da piccolo avevo il vomito subito dopo la colazione. Ma poi sono neanche sicuro. Se ti trovano positivo, allora sei un'eccezione, sei uno sportivo che ha sbagliato, sei un debole. Quell'attimo prima che la siringa entri nel braccio, allora non è una dose, non è una medicina, è solo un aiuto. Faccio sport, non può succedere niente, vero dottore? Dottore! Errori di percorso, molta fatica, grandi soddisfazioni, un ottimo lavoro, bravo dottore, un esempio per tutti. Cosa mi succede? Pupille dilatate, siringhe, lacci emostatici, soffri di astinenza, adrenalina, incubi, sbalzi di umore, sangue, poi non vedo, non Non sento, non parlo, urlo, vedo colori fortissimi, ma compro telefonini di ultima generazione, locali sulla riviera, televisori al plasma, Bluetooth, telecamere addosso, case piene di telecamere, champagne, Chanel, Versace. Oh, soldi, tanti, tanti, tanti, tanti soldi, più soldi di quanti hai mai sognato. Vini da 450 euro a bottiglia, e caviale, cocaina, vitamina, e vinco, vinco, vinco, vinco, premi, premi per il miglior attore, premi per il miglior dottore, premi per il più veloce, premi per la più bella, premi per il più forte, premi per il più alto, premi per il più, e coppe e trofei, l'importanza di essere il primo, l'importanza di non essere l'ultimo, l'importanza di non essere dimenticati, l'importanza di essere famosi, l'importanza di esistere, e dipende, dipendenza di dipendere, dipende, dipendenza di dipendere, dipende, dipendenza di dipendere, dipende. Difficile alzarsi dal letto. La sera non mi addormentavo mai. E poi basta. Mai basta pensare, basta pensieri. Ancora due pasticche, due, un bicchiere d'acqua e via. Sotto! Intorpidimento. Qualche incubo. Ma pensieri no. No, nessun pensiero. Nessun pensiero. Giù. Giù nel profondo. Nell'anima. Io non ho mai deciso niente, mi guardo e osservo, poi mi lascio a quello che dicono che è meglio per me. Vitamine, vitamine, vitamine, vitamine, sì, vitamine, vitamine, e poi un po' di più, male non farà, no, sono uno sportivo, flebo, sì, flebo, flebo, flebo, flebo, flebo, flebo, flebo, flebo, flebo, flebo, sì, flebo, ma, controllate, perché non sono un malato, sonniferi, ma la dieta non si può toccare, carboidrati, proteine, vitamine, un caffè ogni tanto, ma non troppo, no, fa acidità. Leggo un po' il giornale. E vengono, poi si mettono per strada, muoiono, si sfracellano con la macchina, magari ammazzano qualcuno, vabbè. Che differenza fa? Effetti collaterali. La politica estera, qualche guerra, attentati, mine antiuomo, muore qualche centinaio di civile, beh, che differenza fa? Effetti collaterali. Bisogna farlo capire che sei il più forte, che sei il più bello, che sei il più potente, che sei il più ricco, che sei il più, il più più. Poi finalmente mi intorpidisco e dormo. Le stanze d'albergo mi sembrano tutte uguali. Mi addormento e mi sveglio che non so dove sono, non so chi è che mi dorme vicino. Non mi importa niente. Tiro le tende, poi torno a letto. Un po' di luce, ma non troppa. Distingo gli orari per i rumori. All'alba portano la spazzatura. La portano via, poi lavano la strada, aprono il bar. E tutte le mattine un tipo viene a prendere qualcuno, o forse la sua ragazza. L'aspetto in macchina. Io resto a letto finché resisto. Lunedì sono lunghissimi, poi diventeranno domeniche quando smetto di correre. A volte mi piace far finta di niente, allora entro in pasticceria, compro un vassoietto di paste miste e buongiorno, arrivederci. Mangio solo quelle con una bottiglia di vino. L'ematocrito è alto, l'ematocrito è alto, i valori sono sballati. Se mi becano, allora vuol dire che divento vecchio. Allora me ne vado lontano, me ne vado in un posto dove non ci sono più le stanze d'albergo. No, non mi beccano. Non mi beccano, siamo stati tutti attenti. L'importante è non farsi beccare, non farsi notare, fare imprese, ma non eccezionali. Il limbo totale. Essere dimenticati, mai, mi sono abituato, ci si abitua a tutto, ci si abitua e non faccio più incubi finché resisto. Cosa mi manca? Lei, una fotografia intera e non una fototessera, un pomeriggio in libreria, un cappuccino caldo, loro, la doccia che toglie la fatica di dosso, la doccia che ovunque la fai sei a casa in quel momento, la doccia in due, la doccia calda, le mani che non tremano, le mani che non tremano di adrenalina, le mani che non tremano di agitazione, le mani che tremano solo di freddo, i guanti di lana e non solo, i guanti da bicicletta, la neve in montagna, una birra fredda d'estate, un tè caldo d'inverno, quando le gare erano tè caldo all'alba, il sole senza sudare, ridere senza sballare, ridere senza piangere e liberarsi di tutto. Quando il sangue era un taglio e non una trasfusione, uscire a piedi, due biscotti, due. Cosa mi resta? Feste, rave, party, serate, weekend, after hours, happy hours, showroom, suore, ville private e sue DJ set e book and MySpace, amici. cervello, doping per il corpo, doping per l'anima, doping per essere come voi, e doping, e doping. Abituato a tutto, ci si abitua.